La situazione in Francia è non troppo differente da quella italiana. Si è osservato nelle ultime settimane un aumento molto forte della positività ai test, un po' come sta avvenendo in tutto il mondo con l'arrivo della variante Omicron che si diffonde molto più velocemente delle varianti precedenti. A fronte di questo aumento, però, per il momento non c'è stata l'esplosione della mortalità, ma c'è stato, conseguente appunto a un aumento dei casi positivi, un aumento della pressione sugli ospedali e un aumento del tasso di positività sui tamponi effettuati. Quindi ormai il 6%, forse anche qualcosa in più, dei tamponi effettuati risultano positivi. Per questa ragione sono state prese restrizioni ulteriori rispetto a quelle che erano state prese prima. Non ci sono molte differenze rispetto a quello che avviene in Italia. Diciamo che il governo invita a fare un test prima e dopo le feste, in modo da controllare la diffusione del vaccino. Ormai anche qui i bambini dai 5 agli 11 anni che prima erano esclusi dalle vaccinazioni possono essere vaccinati e per quelli più, diciamo, per i maggiorenni, per quelli di più di 18 anni, il lasso di tempo tra la seconda e la terza vaccinazione sarà ridotto a 4 mesi a partire da gennaio. Resta ancora fino a gennaio la possibilità di fare un test antigenico o PCR che ha una durata, una copertura di 24 ore che permette di validare il pass sanitario, l'equivalente del Green Pass italiano. Anche se su questo c'è un progetto di legge che verrà dibattuto a gennaio per passare dal pass sanitario al pass vaccinale. La differenza è che nel primo, quello in vigore oggi, appunto, possono essere validi anche i test effettuati, mentre nel secondo sarà necessario esclusivamente la vaccinazione perché questo sia valido. Rimane, è molto dibattuto anche il fatto di renderlo obbligatorio sui posti di lavoro come in Italia. Su questo si sono espressi i sindacati e in particolare il sindacato di sinistra, il sindacato di classe CGT, si è espresso in maniera estremamente negativa una volta quando è stata consultata dal governo. Per il momento ci sono restrizioni molto simili a quelle italiane, la maschera obbligatoria in tutti i posti pubblici, ci sono inviti ai prefetti a vietare le riunioni pubbliche per le prossime festività, le feste di strada, ma anche, diciamo, tutti gli eventi legati organizzati dalle amministrazioni pubbliche per festeggiare, come le feste di Capodanno, concerti, fuochi d'artificio, saranno molto limitati se non addirittura vietati. Per quanto riguarda le scuole, si è passati alla maschera obbligatoria in presenza per, diciamo, i bambini un po' più grandi, diciamo quelli delle medie, e in caso di positività, questo anche per le classi più piccole, per le classi dei più piccoli, in caso di una positività la classe viene fermata per 7 giorni, anche se c'è la possibilità di riprendere le lezioni in presenza in caso di test negativo a 24 ore. La cosa che forse può stupire di più rispetto a quello che avviene in Italia è che le discoteche ormai da qualche settimana sono state chiuse e rimarranno chiuse fin dopo le festività, riapriranno a partire dal 7 gennaio, così come qualsiasi luogo dove si balla. Sono infatti compresi anche bar o ristoranti danzanti, diciamo. Si invitano ovviamente anche a non fare feste private e si consiglia per il momento di passare a 3 giorni di telelavoro a settimana per chiunque possa, anche per alleggerire, soprattutto nelle grandi città, i mezzi di trasporto come la metro o i treni regionali. Per il momento si può venire in Francia senza problemi, basta il Green Pass, ma se si arriva in Francia da paesi extraeuropei, anche vicini, senza pensare ad altri continenti, viene richiesto un test negativo.